perfetto giorno di Simone Spezia. Italia in crescita ma che resta debole, dice la Commissione Europea. Positivo l'impegno per la correzione dei conti, rischi dalla situazione delle banche e dall'incertezza politica. La Corte dei Conti punta il dito sulla corruzione negli appalti pubblici, è consistente, le inefficienze ne sono una causa e si rivolge a Bruxelles. Nei conti, nel calcolare i costi del sisma, tenga conto della persistenza. Oggi si riunisce la direzione del Partito Democratico, attesa per le scelte di Renzi. Tra le ipotesi, le dimissioni e il congresso. Alla riunione presente anche Padoan. Decine di migliaia di persone evacuate in California, si è rotto il canale di scolo della diga più alta degli Stati Uniti, quella del lago di Oroville, rischio inondazione. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it invece se ci volete scrivere. In apertura dunque le previsioni della Commissione Europea e le dichiarazioni di Moscovici. Siamo in linea con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Beda, buongiorno, e cosa dicono le previsioni? Sì, buongiorno. Le previsioni dicono che l'Italia continua ad essere in grave difficoltà economica rispetto al resto della zona euro. Le previsioni della Commissione segnalano che la crescita sia quest'anno che l'anno prossimo sarà la più bassa tra i 19 paesi membri della zona euro e addirittura tra i 28 paesi membri dell'Unione Europea. Le cifre sono di 0,9% quest'anno e di 1,1% l'anno prossimo. Sono cifre particolarmente basse quando si pensa che la crescita nell'insieme della zona euro per quest'anno dovrebbe essere dell'1,6%. Questa debolezza dell'economia è da imputare naturalmente all'elevato debito pubblico italiano e ha un tessuto economico poco dinamico. La Commissione non per caso segnala anche il rischio di incertezza politica. Il momento evidente è difficile, si discute in Italia di elezioni anticipate e molto probabilmente la Commissione considera questo rischio un ulteriore pericolo per il futuro della congiuntura italiana. Beda, dal lato invece della correzione dei conti richiesta da Bruxelles, che cosa dice Moscovici? Ma il commissario agli affari monetari, Pierre Moscovici, ha ribadito quanto già si sa da alcuni giorni ormai. C'è una trattativa in corso con il governo italiano. La Commissione europea ha chiesto all'Italia di rivedere in corso d'opera il bilancio 2017, perché attualmente è un bilancio che viola il patto di stabilità e di crescita. E quindi la Commissione ha chiesto una correzione ai conti pubblici di circa lo 0,2% del prodotto interno lordo, che è fondamentalmente di 3,4 miliardi di euro. La Commissione insiste per avere delle promesse non solo verbali ma anche scritte. In altre parole, vuole da parte del governo italiano delle misure precise e specifiche in modo da poter prenderle in considerazione quando dovrà valutare nelle prossime settimane se aprire o meno una procedura per debito eccessivo. Ricordo che il debito italiano è ben sopra il 130% da ormai 4 anni. E grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Anche dei rapporti con Bruxelles, in particolare per quanto riguarda i conti del sisma, si è parlato oggi dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, nel quale nell'appuntamento si è parlato anche di corruzione e il servizio. La ripresa economica è fragile, frenata dai vincoli europei, così il presidente della Corte dei Conti Arturo Martucci di Scarfizzi nella sua relazione, in cui chiede all'Europa flessibilità anche sulla prevenzione dei terremoti, che non è slegata dalla ricostruzione. Eventi sì eccezionali ma con effetti continuativi, dice, di questo aspetto non può non tenersi conto. La prevenzione non appare quindi del tutto slegata dalla ricostruzione, poiché non si tratta di cautelarsi contro eventi solo possibili, bensì di programmare una protezione contro effetti drammatici di eventi sismici che presentano purtroppo caratteri di potenziale continuità. Allarme di giudici poi sul rischio di dispersione dei fondi strutturali dell'Unione Europea, fenomeno più diffuso al sud, in particolare l'utilizzo per il settennio 2007-2013, l'ultimo ad essere rendicontato, ha visto una percentuale di poco superiore all'80%. La corruzione poi al centro della relazione del procuratore generale Carlo Galtieri, secondo il quale non è sempre la corruzione a determinare l'inefficienza, ma è spesso vero il contrario. In realtà è l'inefficienza a creare ampie zone oscure nelle quali più facilmente si possono inserire e nascondere i conflitti di interesse e la corruzione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E anche di conti pubblici è presumibile che si parli oggi nella direzione del Partito Democratico, appuntamento politico di giornata molto atteso anche per capire che cosa succederà del congresso del Partito Democratico e soprattutto del voto. Si parlerà di conti pubblici perché c'è anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Presenza del ministro dell'economia Padoan, a dir poco inusuale, Simone, nella direzione di oggi, ma è evidente che anche i prossimi passi italiani in sede europea e tempi e contenuti della manovra correttiva saranno condizionati dalle scelte che usciranno oggi dalla resa dei conti in casa Partito Democratico. Un'eventuale accelerazione di Renzi verso il voto anticipato manderebbe la correzione del disavanzo in soffitta. Tagli e nuove tasse non sarebbero infatti il biglietto da visita migliore in campagna elettorale. Altra cosa se la legislatura andrà alla sua fine naturale nel 2018. Occhi puntati allora su quanto dirà e proporrà Matteo Renzi per una direzione che inizierà alle 14.30 e che sarà in diretta streaming. Gli scenari che l'ex presidente del Consiglio potrebbe prospettare sono: percorso in tempi rapidi verso il congresso, in vista del quale Renzi potrebbe anche dimettersi, oppure primarie del PD per avere con un grande coinvolgimento una leadership legittimata da un passaggio popolare. Queste sono le parole di Renzi. Cosa chiede tuttavia l'ex premier alle numerose correnti interne, soprattutto a quelle di minoranza? Chi perde rispetti l'esito del voto. La diffidenza verso il segretario è tuttavia molta, le regole del congresso vanno concordate insieme e sui tempi non possono esserci blitz. È la replica. Cuperlo evoca la scissione, Emiliano attacca Renzi, Rossi chiede la nomina di un segretario di garanzia per la fase congressuale. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Questi problemi all'interno del Partito Democratico, mentre andiamo ai problemi della Giunta di Roma del Movimento 5 Stelle. Si fa sempre più difficile in Campidoglio la posizione di Paolo Berdini. L'assessore all'urbanistica, che in un colloquio con la stampa aveva espresso pesanti giudizi sulla sindaca Virginia Raggi, avrebbe ormai le ore contate e decisivo potrebbe essere il vertice di maggioranza previsto nel pomeriggio. In una lettera al Fatto Quotidiano, Berdini oggi si dice vittima di un accanimento mediatico senza precedenti. Una conseguenza delle sue posizioni critiche nei confronti dello Stadio della Roma, la più importante speculazione immobiliare del momento in Europa, scrive l'assessore, che rivendica di aver sempre difeso la legalità assieme alla prima cittadina e di essere pronto a farlo ancora. Gelida però la reazione della sindaca, che avverte la pazienza a un limite. Continuo a leggere interviste e dichiarazioni. Sinceramente non so dove trovi il tempo, perché c'è da lavorare e c'è da lavorare tanto. Noi lavoriamo anche fino a notte fonda. Lui sa bene che ci sono dei dossier da portare avanti, per senso di responsabilità nei confronti di Roma e dei cittadini dovrebbe farlo. Poi vi dico, la pazienza, soprattutto quella delle persone, è un limite. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Stato dichiarato lo stato di emergenza in California per il rischio inondazione da una grande diga. Come una cascata gigantesca, per la prima volta in 50 anni l'acqua tracima oltre il bordo della diga di Oroville nel nord della California e sembrano fiumi in piena, fangosi quel che nascono ai suoi lati. Con i suoi 234,7 metri, la diga circa 240 km a nord-est di San Francisco è infatti la più alta degli Stati Uniti. Anche se il flusso più forte si è fermato grazie a interventi di urgenza, rimane ancora in vigore l'ordine di evacuazione di almeno 180.000 persone, circa una persona su tre nell'area. E le strade e le autostrade sono intasate da migliaia di auto in fila che fuggono dal bacino sottostante la diga. Pesanti piogge dopo un lungo periodo di siccità rischiano infatti di far collassare lo sfioratore di emergenza, il livello limite della diga. Il suo cedimento provocherebbe un'inondazione della valle. Abbiamo fatto fluire dallo sfioratore principale tonnellate di acqua in eccesso, spiega il comandante dei vigili del fuoco Kevin Lawson, e dice una squadra di elicotteri lo stanno riparando con cumuli di sacchi pieni di rocce. Tutti i 23.000 soldati della Guardia Nazionale californiana sono ora in stato di allerta. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Restiamo all'estero, andiamo a Palmira. Ora ci sono anche le immagini a dimostrare quello che già nel passaparola degli osservatori era circolato. A Palmira negli ultimi due mesi è stato distrutto pure il proscenio del teatro romano insieme al tetrapilo, il tempio con quattro porte e 16 colonne che dava l'ingresso al cuore dell'antica città, patrimonio UNESCO e da ultimo bersaglio prediletto del califfato. Un drone russo ha sorvolato il sito archeologico rioccupato dall'ISIS a dicembre, nove mesi dopo la liberazione, approfittando, secondo funzionari del Ministero del Turismo di Damasco, dell'attenzione tutta concentrata su Aleppo. Venuti da diverse zone del deserto verso Palmira. Hanno approfittato di questa situazione, tutti parlano di Aleppo, una sorpresa sia per noi come siriani, cioè quello che è successo a Palmira. Nelle ultime settimane si è intensificata l'offensiva russa intorno alla città di Palmira, dove è stato notato un aumento della via vai di camion, segno, secondo Mosca, dell'intenzione dei terroristi di portare quanto più esplosivo possibile, seguire quindi con le distruzioni delle antiche vestigia. Un passato che è immagine di quell'identità della Siria che il califfato vuole annullare, anche se contemporaneamente si finanzia pure con gli scavi archeologici clandestini e il mercato nero dei reperti. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è un'inchiesta, come sapete, sulla gestione del CARA di Mineo. Iniziano ad arrivare i primi risultati giudiziari. Posti di lavoro in cambio di voti. Con questa accusa 17 persone sono state rinviate a giudizio per la gestione del CARA di Mineo in provincia di Catania. Tra loro anche il sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Castiglione, uomo di Alfano a Mineo, dove l'NCD è il primo partito con percentuali bulgare quando a livello nazionale si ferma al 3%. NCD che torna in diverse vicende e indagini che riguardano il business sui centri per migranti. Ad esempio in Veneto, dove il leader nel settore è la Coop Ecofficina ed Eco di Padova. Pare grazie all'interessamento della presidente della provincia, Barbara Degani, dell'NCD, ora sottosegretario all'ambiente, sempre in quota Alfano, che era vicina a Simone Borile, marito della presidente di Edeco e presidente di diverse società che gestiscono i rifiuti in provincia. Anche Isola di Capo Rizzuto, provincia di Crotone, ha il suo CARA gestito da Leonardo Sacco, con il quale il ministro Alfano vanta una foto pubblicata su Facebook e ora dall'Espresso, secondo il quale Sacco è vicino al clan Arena. Sacco gestisce ora anche il centro di Lampedusa, la cui direzione prima era stata affidata a Lorenzo Montana, suocero di Alessandro Alfano, cioè il fratello dell'ex ministro dell'Interno. C'è poi Benevento, dove Paolo Di Donato, ex consigliere comunale di NCD, gestisce 12 strutture e gira in Ferrari in compagnia del sottosegretario alla difesa Gioacchino Alfano, omonimo, non parente del ministro, ma sempre di NCD. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stato il fotografo della Associated Press, Buran Osbilici, ad aggiudicarsi il World Press Photo, il più importante premio fotografico di cronaca di quest'anno, per l'immagine dell'assassinio dell'ambasciatore russo in Turchia Andrei Karlov il 19 dicembre scorso. Osbilici, che si trovava all'inaugurazione di una mostra alla quale era intervenuto l'ambasciatore, era riuscito a realizzare l'intera sequenza dell'assassinio. In particolare lo scatto premiato è stato quello che ritrae il killer, il poliziotto Mevlut Mert Altintas, in piedi con la pistola nella mano destra puntata a terra e la sinistra alzata ad indicare il cielo, con il corpo dell'ambasciatore a terra davanti a lui. Siamo a parlare del fine settimana sportivo, ormai consueto appuntamento con il nostro Dario Ricci. Ciao Dario, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, vai, caro. Simone. Beh, tra l'altro una never ending week, direi, perché da oggi, cioè da ieri o da sabato si è cominciato a giocare a calcio. Finiremo, se tutto va bene, ma continuando, domenica prossima, perché tornano le coppe, quindi tutte le sere ci sono partite di calcio, a partire stasera da Lazio-Milan, ma poi soprattutto da domani ritorna a suonare la musichetta che più ci piace, perché è quella della Champions, della grande competizione europea. Domani Benfica Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain Barcellona e poi mercoledì Real Madrid Napoli. Usciamo da un fine settimana che è stato quello di Gigi Riva e anche di Gonzalo Higuaín. Ieri sera bellissima la serata del Sant'Elia per i tifosi cagliaritani fino al fischio d'inizio, perché c'è stata la celebrazione di Rombo di Tuono. Poi è iniziata la serata dei tifosi juventini con la doppietta del Pipita. E mercoledì sarà un'altra grande giornata di calcio, perché il Napoli ha l'esame del Bernabeu. Sì, che esame che sta preparando in maniera particolare, Dario, no? Sì, proprio di qualche mezz'ora fa, diciamo, è stata la notizia che di fatto sarà un Napoli blindatissimo al Bernabeu. Non farà neppure la rifinitura sul campo, il walk around, che è di solito la passeggiatina che i calciatori fanno a stadio vuoto per vedere un po' l'effetto che fa. Chiaramente poi quando ci stanno 80.000 persone è un po' diverso, ma per i calciatori è importante anche prendere quei riferimenti visivi. Alla conferenza stampa parteciperà il solo Sarri, mentre la squadra sarà blindata in albergo e riceverà la visita del Pibe d'Oro di Diego Armando Maradona, che come sappiamo seguirà i partenopei in trasferta insieme a altri 10.000 tifosi. Una gestione un po' particolare, ce lo dirà il campo poi se sarà la migliore. Però sicuramente forse non è l'approccio più corretto per provare a sfatare questo mito del Bernabeu. È bello che il Napoli vada lì. Sì, perché in questo modo in realtà gli metti una discreta pressione addosso. Invece insomma, forse una bella risata partenopea potrebbe aiutare a togliersi la scimmia dalle spalle. Però vediamo, ce lo dirà il campo. Vedremo dunque. E grazie al nostro Dario Ricci per questo aggiornamento e per questo punto. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo in qualche modo parlando proprio di calcio, perché vediamo se Andrea Roccabella riesce a farci sentire un audio che abbiamo preparato. È l'audio di Luca Toni, al momento dirigente dell'Hellas Verona. Sentite qua. Siamo stati accerchiati, siamo stati calci, pugni alle macchine, però nel frattempo che c'erano i calci e macchine, uno con un calcio ha spaccato il vetro davanti al presidente e tutti i vetri sono arrivati dentro, ed è stato molto bravo il mio amico sinceramente a guidare, perché è riuscito a fare un po' avanti indietro, un po' avanti indietro e così a scappare via. E la cosa che mi ha dato sinceramente più fastidio è che c'erano a 10 metri dei vigili, che io non ho niente contro i vigili, per l'amor del cielo, ognuno però penso che debba fare il suo lavoro, e si sono voltati e non hanno detto niente. Io immagino la vicenda arriva da Avellino, Verona, appunto, e più avanti, tra poco, ospiteremo il comandante dei vigili di Avellino, che a Toni vuole rispondere. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato delle previsioni della Commissione Europea sull'Italia, della Corte dei Conti che punta il dito sulla corruzione, della direzione del Partito Democratico, di quello che succede nella Giunta 5 Stelle a Roma. Abbiamo parlato delle decine di migliaia di persone evacuate in California per la diga che ha dei problemi ed è a rischio, per un'area intera che è a rischio inondazione. Ci siamo occupati di calcio. Le ultime notizie invece ci raccontano di una valanga che ha travolto alcuni sciatori in Savoia, in Francia, una guida e 8 sciatori. Al momento le vittime accertate sarebbero 4, secondo le indicazioni che stanno arrivando in questi minuti dalle agenzie e anche dalle fonti di informazione francesi. Naturalmente appena avremo maggiori aggiornamenti ve li daremo. Il luogo è Tignes, l'allarme è stato dato verso le 11, l'altitudine a 2100 metri in un settore fuori pista, appunto quando la valanga si è formata. Naturalmente appunto anche su questo vi daremo aggiornamenti come sempre e come su tutto. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, iniziamo da Avellino, dove nel prepartita tra Avellino e Verona ci sono state delle discrete violenze nei confronti dei dirigenti dell'Hellas Verona. Abbiamo sentito un passaggio di quell'audio di Luca Toni. Ebbene, risentiamocelo e risentiamolo integralmente, perché poi lo dice anche, insomma, io l'ho visti con i miei occhi, via. Siamo stati accerchiati, siamo stati calci, pugni alle macchine, però nel frattempo che c'erano i calci e macchine, uno con un calcio ha spaccato il vetro davanti al presidente e tutti i vetri sono arrivati dentro, ed è stato molto bravo il mio amico sinceramente a guidare, perché è riuscito a fare un po' avanti indietro, un po' avanti indietro e così a scappare via. E la cosa che mi ha dato sinceramente più fastidio è che c'erano a 10 metri dei vigili, io non ho niente contro i vigili, per l'amor del cielo, ognuno però penso che debba fare il suo lavoro, e si sono voltati e non hanno detto niente. Io immagino se c'erano dei bambini, una cosa, un vetro, una cosa, 16 persone che ti accerchiano la macchina, cioè secondo me è una cosa folle ancora nel 2000 e siamo nel 2017, ripeto, la cosa grave è che c'erano dei vigili che si sono girati, e quelli l'ho visto io con i miei occhi, quindi sono sicuro che si sono girati. Colonnello Michele Arvonio, comandante dei Vigili Urbani di Avellino, buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa è successo? Si sono spaventati o sono tifosi dell'Avellino i suoi sottoposti? La ricostruzione fatta dal dirigente del Verona non risulta assolutamente a vero. In effetti, di qualche minuto prima del passaggio del veicolo con a bordo il dirigente e il direttore generale, nonché il presidente del Verona Calcio, la mia pattuglia era impegnata in lasciare il libero passaggio a un furgoncino che trasportava altri tifosi del Verona. Quindi voglio dire, in quella circostanza, in un momento che abbiamo quantificato in pochissimi minuti, c'è stato questo problema di ordine pubblico causato da pedoni in transito lungo quell'arteria. Non risulta vero che i vigili si sono allontanati dal posto, la polizia municipale è sempre presente. No, ma Tony non l'ha detto, ha detto che si sono voltati dall'altra parte, che è un'altra cosa. Guardi, è una circostanza assolutamente è impossibile quello che dice Tony, perché la polizia municipale non poteva voltarsi dall'altra parte, in quanto era impegnata nel bloccare quell'arteria e consentire l'accesso esclusivamente a chi era autorizzato. Loro non si sono accorti di niente, perché il veicolo era completamente coperto dai pedoni che transitavano lungo quella strada. Mm. È stata una mossa fulminea quella della rottura del vetro del veicolo, e contestualmente la macchina è partita a forte velocità allontanandosi dal posto. Mi scusi Arvonio, in realtà nel racconto di Tony si dice altro, perché si dice non è nella parte che abbiamo sentito, però dice vetro rotto, poi dice abbiamo provato ad uscire, mentre provavamo ad uscire nel frattempo è stata addirittura lanciata una bottiglia contro la macchina, che per fortuna è atterrata. Non è così, e la Vigos questo lo sta verificando. Noi tra l'altro siamo anche vicini a capire le responsabilità di chi sono, e naturalmente a fare in modo che queste persone vengano assicurate alla giustizia e non succeda mai più quello che è accaduto. La verità è che il tutto è avvenuto in pochi secondi, e la polizia municipale, che era sul posto solo dopo, ha capito che non si trattava di un mero tamponamento, ma c'era stato questo atto. Ascolti Arvonio, la conseguenza diretta di tutto ciò è che dobbiate denunciare o querelare Tony per calunnia. Guardi, io su questo svolgo un ruolo pubblico, e ritengo che chi come noi che lavora per la pubblica amministrazione, ma questo riguarderebbe anche i dirigenti del Verona Calcio, bisogna abbassare i toni. Magari è stato un momento di forte tensione vissuto dal dirigente del Verona Calcio, e naturalmente ma non avvierete nemmeno una verifica o un'ispezione per capire questo come sono? Questo è già stato fatto, assolutamente. Io già tra il primo e il secondo tempo avevo la relazione dettagliata dei miei agenti che mi descrivevano i fatti. Non è successo quello che racconta Tony, solo questa è la verità. La verità è che gli agenti non si potevano girare, e la circostanza che si sono girati di spalle è abbastanza anche poco credibile da un punto di vista operativo, perché girarsi alle spalle cosa significa? Dare le spalle a tutti i veicoli incolonnati, e come si faceva a dire se potevano accedere o no? C'è una circostanza abbastanza surreale. Quindi per chiudere, Arvonio, niente querela per Tony, non lo querelerei. No, io sono dell'orientamento di fare in modo che si addivina le responsabilità, si arrivi alle responsabilità, e soprattutto si cerchi di fare tesoro di tutto ciò per fare in modo che non accada mai più. Fatto sta che quella macchina del dirigente del Verona Calcio lì in quel posto non ci doveva stare, Certo, in un paese civile ognuno è libero di andare allo stadio, esatto. Ma in un contesto di ordine pubblico sarebbe stato meglio lasciare l'albergo con la squadra e recarsi allo stadio tranquillamente. Se l'avesse solo chiesto magari di essere accompagnato, ne avremmo fatto immediatamente la scorta. Assolutamente, sì. Ma questo è della prassi, è stato un fuori dal protocollo, in effetti questo arrivo allo stadio da soli, e di lì a poco, 10 minuti prima erano passati senza alcun tipo di problema il pullman con la squadra e poi la terna arbitrale, senza nessun tipo di problema. Forse è stato un po' imprudente, ma ripeto, in una città civile è evidente che ognuno questa cosa non deve succedere. Va bene, la ringrazio. Grazie Michele Arvonio, comandante dei Vigili Urbani di Avellino, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi abbiamo ancora forse 3-4 minuti per parlare della vicenda di questa aggressione che è avvenuta in un treno a Milano e più in generale evidentemente di sicurezza di questi treni regionali sui quali tanti di noi viaggiano ogni giorno. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: una valanga in Savoia e in Francia ha travolto un gruppo di sciatori, ci sarebbero almeno 4 vittime sotto la neve. Italia in crescita ma resta debole, dice la Commissione Europea, positivo l'impegno per la correzione dei conti. La Corte dei Conti pubblica punta il dito sulla corruzione negli appalti pubblici, è consistente, le inefficienze ne sono una causa. Oggi si riunisce la direzione del PD, attesa per le scelte di Renzi tra le ipotesi di dimissioni e di congresso. Decine di migliaia di persone evacuate in California, si è rotto il canale di scolo della diga più alta degli Stati Uniti, il rischio inondazione. La borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, qualcuno chiede di commentare, di lasciare un commento su quest'intervista al comandante dei Vigili di Avellino. Signori, ma che dobbiamo commentare? Ha fornito da una parte la sua versione dei fatti, dall'altra parte ha detto una cosa che spero che si renda lui stesso conto che è assurda, cioè il fatto che è stata un'imprudenza muoversi in macchina per andare allo stadio. Ragazzi, che parliamo, appunto, come ci scrive qualcuno, in una città civile una cosa di questo genere non deve avvenire. Uno deve poter prendere la macchina e andare allo stadio come gli pare, anche se è un dirigente della squadra avversaria, ma sappiamo come funziona in certi casi il calcio. Ci occupiamo adesso di sicurezza sui treni, quei treni sui quali viaggiamo ogni giorno, appunto sono i treni regionali, i treni sui quali viaggiano migliaia di pendolari, e la vicenda è quella che la conoscerete, che arriva da Milano, o meglio dai dintorni di Milano, insomma, di una quindicenne che sarebbe stata molestata e picchiata su un treno mentre tornava a casa, appunto da Milano a Vigevano. La polizia sta cercando di capire se uno dei due aggressori possa essere un 25enne che tempo fa aveva cercato di contattare la ragazza su Facebook. Si parla appunto di sicurezza, l'assessore regionale Alessandro Sorte chiede di mandare i militari in tutte le stazioni della Lombardia, che tra l'altro sono 400, quindi è tecnicamente credo impossibile. Antonino Malara è responsabile nazionale Orsa Macchinisti Uniti, quindi un sindacato. Buongiorno Malara, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, ci dice un po', ci dà un quadro dal vostro punto di vista di com'è la sicurezza sui treni, in particolare sui treni della Lombardia, visto che qua siamo. Guarda, è un'emergenza, la sicurezza è sotto gli occhi di tutti da qualche anno a questa parte, quindi è un problema inquadrato come ordine pubblico, ci sono 2300 treni al giorno, 700.000 pendolari e quindi c'è tanta delinquenza, è cresciuta del 51% nell'ultimo anno la segnalazione che i capotreni fanno per qualsiasi, insomma, diciamo, atto di vandalismo, dal minimo al più, diciamo, grande, che ha richiesto addirittura 236 interventi della polizia. 236, ricordiamo che fu proprio a Milano, o meglio, nei dintorni di Milano, su un treno di Trenord, che ci fu un'aggressione ad un capotreno e ad un macchinista un anno e mezzo fa, con un macete addirittura, insomma, e poi circa un anno fa. È il caso più eclatante, in realtà, però lei, sono cose che avvengono quotidianamente. Sì, sono cose che avvengono quotidianamente, però voglio dire, noi abbiamo avuto parecchi contatti con, diciamo, confronti con la dirigenza di Trenord e anche con le istituzioni, e mi è sembrata la dirigenza Trenord molto sensibile, la dottoressa Farisè, su questo argomento. Ci esiste un piano, diciamo, di affrontare la sicurezza quasi concreto, volevo dire concreto, non lo è perché non, solo Trenord non c'è. Quasi concreto non è male. Perché diciamo che nella stesura tocca tutti gli aspetti, diciamo, che qualificanti per dare più tranquillità, più sicurezza, diciamo, ai viaggiatori. Poi la sola Trenord è comunque un problema di investimenti, è un problema che ci vuole un concreto piano industriale per, diciamo, il rinnovo parco rotabili, perché tutte le carrozze devono essere attrezzate per, diciamo, come nel piano di Trenord, con l'apporto anche delle parti sociali si è cercato di individuare, quindi tutti i sistemi tecnologici possibili, ma sappiamo che il piano, diciamo, di rinnovo parco rotabile è ben lontano da poter poi dare concretezza a questo piano. E poi c'è anche l'aspetto di un piano straordinario della sicurezza e nelle stazioni. Lei dice, mi chiarisce una cosa, Malara, secondo lei è una situazione emergenziale quella della sicurezza o, per così dire, è una cosa che emerge con singoli episodi, però è contenibile e contenuta? Guardi, non è contenibile, non è contenuta. È contenibile se appunto c'è un progetto serio di investimenti seri per il ricambio di parco rotabile, appunto moderno, con tecnologie, e poi un piano straordinario della sicurezza nelle stazioni. Ci vogliono gli investimenti. Io ho parlato anche lo stesso, diciamo, vice prefetto, tutta gente, insomma, molto attenta, ci mancherebbe, molto sensibile, sì. Anche però poi di fatto concretamente, cioè c'è io poco. Capisco, si può anche mandare i militari, mettiamo l'esercito, ma se dopo non c'è nel contempo una concreta presa di coscienza proprio di investire risorse. Lei dice tutto questo è inutile. E Malara, devo veramente chiudere. Io la ringrazio perché la puntata di oggi è un po' più corta. Solo una breve risposta a Orazio, che ci scrive da Firenze. Dice: vorrei vedere se la ragazza in questione fosse sua sorella, figlia o madre, se riderebbe ancora. Ma non si rideva di quello, chiaramente, non dell'aggressione, del fatto che mettere i militari in 400 stazioni è uno sforzo probabilmente anche eccessivo. Comunque, la discussione è aperta. Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.